want me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, two, two, two, hey, hey. Check one, two, mic check, one, two, mic check, one, two. Sound check. Microphone check. Il suono della musica. DJ Telesforo. Ci siamo pronti per dare il via al soundcheck numero 125. Buon pomeriggio da GG Telesforo a tutti voi in contatto con Radio 24. Lasciatemi ringraziare ancora una volta tutti voi appassionati di musica, affezionati alla nostra prova del suono, piccola grande rubrica musicale con la quale insieme a voi in questi primi 5 mesi di Airplay abbiamo riportato a galla, combattendo fra le onde e le frequenze della radiofonia nazionale, alcuni artisti e molte composizioni a volte dimenticate e in alcuni casi musicisti e repertori contemporanei snobbati e in qualche modo poco considerati dal nostro sistema radiofonico. Il dato certo però, quello che viene fuori leggendo le vostre mail, è che il vostro gusto, il gusto degli appassionati di musica vicini al nostro soundcheck, apprezza sicuramente il talento degli artisti più che i successi modaioli e stereotipi della discografia internazionale da classifica. Così anche oggi, come abbiamo fatto ieri, la nostra scaletta musicale prevede alcuni fra gli artisti più richiesti, quelli più apprezzati dai nostri radioascoltatori, quelli che hanno invaso con le loro mail il nostro indirizzo di posta elettronica soundcheck@radio24.it, e quindi diamo il via ancora una volta alla nostra piccola grande rubrica musicale con il talento e l'arte di una meravigliosa donna, una ragazza bellissima, si chiama Esperanza Spalding, contrabbassista, polistrumentista, arrangiatrice, producer dei suoi dischi, che ha realizzato ultimamente questo album splendido, molto complesso, che si intitola Black Radio Society, e in questo brano dal titolo Black Gold incontra un altro talento vocale, quello di Algebra Blessed. Esperanza Spalding, da voi richiesta ancora una volta al soundcheck di Radio 24. Hold your head as high as you can, high enough to see who you are, little man. Life sometimes is cold and cruel, maybe no one else will tell you, so remember that you are black gold, black gold. You are black gold. Now maybe no one else has ever told you so. Sound check. Il suono della musica. L'orecchio attento dei nostri radioascoltatori avrà riconosciuto una vecchia melodia scritta da Seal. Il brano era Kiss from a Rose, ma nella versione contemporanea della bravissima musicista cantante Becca Stevens, diplomata in chitarra, suona molto bene l'ukulele. Becca Stevens vive a New York, guida la sua band, anche se in questo momento è molto richiesta dai musicisti di jazz contemporaneo, e tra l'altro sta collaborando attivamente con Gretchen Parlato. Becca Stevens, una scoperta che abbiamo fatto ormai da diversi anni, ma che abbiamo proposto qui al soundcheck riscuotendo tanti consensi via mail. Sì, sono arrivate tante mail all'indirizzo soundcheck@radio24.it, proprio di appassionati che chiedevano informazioni su questo talento strepitoso, e ci auguriamo prestissimo di vederla dal vivo in Italia. Così come abbiamo presentato al soundcheck in questi primi mesi di programmazione questa favolosa band americana multietnica guidata dal bassista Mike Michael League. Ultimamente è anche uscito un disco nuovissimo, ma qui vi facciamo sentire il potere, la potenza di fuoco degli Snorky Puppy con la partecipazione della vocalist Indambi, da un concerto dal vivo molto particolare, album intitolato Family Dinner. E sì, proprio una riunione di famiglia fra artisti e pubblico. Anche il pubblico era presente sul palco durante le registrazioni di questo album strepitoso per Snorky Puppy, presenti ancora una volta al soundcheck e molto richiesti dai nostri radioascoltatori. What does it mean when I start to cry when we're making love? Do you think that I could tell you how you make me feel? Could you handle it? Cause this love be real, yet I won't impose my thoughts on you, but I know you know, and you feel it too. These are my thoughts, my soul to keep, it's just that much too deep. Soundcheck, il suono della musica. Di nuovo in contatto con il soundcheck di Radio 24 e anche in questa puntata, alla quale abbiamo dato come titolo Soundcheck Listener's Choice, andiamo a riascoltare i brani più richiesti via mail dagli appassionati di musica che hanno contattato il nostro indirizzo di posta elettronica soundcheck@radio24.it. E fra i nostri appassionati e fedeli seguaci ci sono molti musicisti che richiedono sempre Gretchen Parlato. Sì, Gretchen Parlato rappresenta oggi la vocalist contemporanea per eccellenza. Non è dotata di una vocalità potente, anzi una vocalità suadente, molto intonata. Pensate che è arrivata prima alla Thelonious Monk Competition, che è un summit di vocalisti e di musicisti lì a New York, un passaggio fondamentale per la crescita di un artista, e Gretchen Parlato fu selezionata in quell'edizione da alcuni fra i più quotati musicisti della storia del jazz, e fra questi c'era anche Herbie Hancock, che rimase sorpreso proprio dalla voce duttile e educata della ottima Gretchen Parlato, che ha anche buon gusto nel scegliersi i musicisti. E infatti qui ascolterete il sound che ricava dall'ultimo album intitolato Lost and Found per questa versione di Holding Back the Years, un brano scritto da Mick Hucknall dei Simply Red, ma nella versione della ottima Gretchen Parlato, sempre qui al soundcheck di Radio 24. Tantissime email hanno raggiunto il nostro indirizzo di posta elettronica soundcheck@radio24.it quando abbiamo parlato con l'autore, giornalista, critico musicale Nicola Gaeta del suo ultimo libro intitolato BAM. E BAM è proprio l'acronimo che sta per Black American Music, il nuovo movimento musicale e culturale inventato, forgiato dal trombettista Nicholas Payton, che pensa che un certo tipo di musica debba essere a uso esclusivo dei neri. Ecco, Nicholas Payton, musicista di New Orleans, trombettista ma al tempo stesso polistrumentista, nel 2011 si chiude in studio di registrazione e da solo realizza tutte le parti scritte per un disco che sta a cavallo fra il jazz e il contemporary R&B. E il brano col quale io vi voglio salutare per questa puntata, dove praticamente l'airplay l'avete selezionato voi inviando le vostre email al nostro indirizzo di posta elettronica, eccolo qui, Nicholas Payton con una sua composizione intitolata Give Light, Live Life, Love, brano bellissimo dove Nicholas Payton se la suona e se la canta. A tutti voi buona giornata e buona musica da Giorgio Telesforo. Yeah. Check, il suono della musica.